negli ultimi giorni si diceva che avrebbero, no, che avrebbe fatto un annuncio, e a metà settimana è stata pubblicata un po' una sorta di WikiLeaks della tecnologia, è stata pubblicata una lettera che Stephen Elop, che è sconosciuto ma è l'amministratore delegato di Nokia da settembre, un ex Microsoft, già qui dovremmo capire alcune cose, è stata pubblicata una lettera che Elop ha inviato a tutti i dipendenti e diceva sostanzialmente: guardate che ci troviamo su una piattaforma che sta prendendo fuoco, citando la storia di una persona che lavorava su una piattaforma del Mare del Nord, e diceva: questa persona si è svegliata la notte, si è accorta che la piattaforma stava andando a fuoco e ha detto: qua o vado a fuoco oppure mi butto nel mare, noi dobbiamo buttarci nel mare. E da qui poi è nata questa domanda. Cioè, loro, se ho ben capito, ci capisco veramente poco, come sanno anche i tecnici qui di Radio 24 devono tribolare col mio computer, però a me questa cosa sembra un'alleanza importantissima che va a sfidare, sì, il colosso. Perché il titolo Nokia perde il 14,2% oggi a Milano e va malissimo anche in Finlandia? Beh, allora, sostanzialmente perché assieme a questo annuncio non ci sono state comunicazioni di target per quest'anno e il prossimo anno. Nokia si è limitata a dire: il 2011 e il 2012 saranno anni di transizione, senza dire quanto si risparmierà da queste sinergie, quali saranno i ricavi. E poi anche perché diciamo che nel mercato il sistema operativo di Microsoft negli ultimi anni ha perso quota, ha perso di appeal, e quindi molti operatori ritengono che questa sia un'alleanza estremamente difficile, e tra le due aziende chi ci guadagnerà di più sicuramente sarà la Microsoft, che appunto ha avuto delle difficoltà fino a qualche anno fa, quando c'era Windows Mobile, le cose non andavano certo bene. Adesso stanno andando un po' meglio con Windows Phone, che è un nuovo sistema operativo, ma sicuramente il mercato è molto dubbioso, perché effettivamente ci sono molti punti interrogativi aperti.